Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti e tutte, da Frey, Olga e Debs. Ben ritrovate con quest'ultima puntata di Velloon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio che vi dà appuntamento oramai per settembre, purtroppo. Prima di saluti, però, abbiamo pensato di lasciarvi, come si usa fare a scuola prima delle vacanze, una lista di libri per l'estate. Il filo rosso naturalmente è quello di leggere di storia, dell'approfondire tematiche del passato, dandoci però spazio con questa lista di libri di scegliere dei punti di vista differenti, di prendere la storia secondo una maniera magari un po' più leggera rispetto a quella con cui siamo soliti parlarvene. Vi proporremo infatti delle letture che potrete affrontare tranquillamente, come si dice, sotto l'ombrellone, augurandoci che andrete in vacanza naturalmente. Per la rassegna bibliografica di oggi abbiamo deciso di seguire una linea tematica. Non sarà un limite, anzi, come vedremo, sembra venir fuori naturalmente dalla lettura di vari testi usciti fra 2017 e 2018. Per presentarvi il tema, partiamo dal libro che ci ha ispirato per seguire questa pista. Si tratta di un fumetto di Guy Delisle, autore canadese noto al pubblico per i suoi reportage da Pyongyang e da Gerusalemme, in cui affronta situazioni di conflitto e di crisi politica che tendono a sfuggire ad uno sguardo razionale usando uno stile narrativo incentrato sulla satira. Se i libri precedenti hanno al centro proprio l'autore che racconta quanto vede e giudica secondo il proprio punto di vista, in Fuggire, memoria di un ostaggio, edito da Rizzoli Lizard nel 2017, Guy Delisle costruisce la narrazione sul punto di vista di un ostaggio, Christophe André, operatore di Medici Senza Frontiere, che fu vittima di un sequestro in Cecenia nel 97. La storia di André risulta essere quasi sorprendente sotto la matita di Guy Delisle, quel suo stile da striscia satirica che normalmente serve per far emergere l'elemento comico e grottesco delle situazioni incontrate. Si presta molto bene alla narrazione di un'esperienza di costrizione e di paura, semplificandola nel suo elemento esistenziale e permettendo al lettore e alla lettrice di immergersi nei panni del sequestrato. Cosa ci comunica Fuggire, memoria di un ostaggio? Ambientato negli anni dell'infuriare della crisi cecena negli anni 90, una delle zone in cui ha trovato uno sviluppo forte ed un rilancio definitivo l'islamismo politico armato, la storia di questo ostaggio francese con un insopprimibile desiderio di fuga, pur trovandosi ammanettato ad un termosifone, ci è sembrata una buona metafora per raccontare questo 2018 di grandi movimenti di persone ostacolate da mari e muri, da barriere che danno vita a nuove esclusioni e marginalità, da cui però usciranno sempre delle nuove forme di resistenza e spazi per non lasciarsi distruggere, come Christophe che, barba lunga e ammanettato, vede scorrere mesi dal suo giaciglio per poi uscire. Vi proponiamo quindi una serie di libri tutta giocata tra vie di fuga, viaggi illegali e desideri di rompere situazioni di costrizione, che ci aprono la strada ovviamente ad una riflessione sulla storia. Il nostro viaggio fra i libri del 2017-2018 a tematica fuga parte da Est. Abbiamo parlato molto quest'anno di blocco dell'Est, ricordando l'anniversario del 1917 da cui tutto è nato e citando il 68 oltre Cortina di Ferro. Lo riprendiamo adesso per concentrarci sui tanti movimenti che pur ci furono entro le maglie abbastanza strette dei regimi autoritari. Primo spunto di questo racconto sono due libri pubblicati da Keller, casa editrice nata a Rovereto nel 2005, che propone una serie di testi dedicati proprio al viaggio e al movimento nel mondo, stampando fra le altre cose molti resoconti di viaggio e romanzi di autori e autrici che hanno fatto del viaggio la parte fondante della loro vita. Da Keller prendiamo due interessanti testi dedicati ai viaggi e ai viaggiatori in quella che era l'Europa socialista. Il primo è Viaggiare controvento, viaggiatori illegali nell'Unione Sovietica, a cura di Cornelia Klaus e Frank Butcher, uscito nel 2017. Libro questo che raccoglie e ricostruisce, tramite le memorie e i racconti dei protagonisti e delle protagoniste, le esperienze di viaggi illegali per l'appunto, perché prive di una formale autorizzazione per l'accesso nel paese del socialismo. Esperienze di viaggi illegali fatte da giovani della DDR che si muovevano negli anni della Guerra Fredda, soprattutto a partire dalla data fatidica del 68, e si muovevano per conoscere e scoprire meglio l'Unione Sovietica. Spesso legati all'associazionismo religioso che faceva da tramite per contatti con sconosciuti ma disponibili ospiti nei paesi baltici e in Russia, questi giovani tedeschi dell'Est vivevano il gusto dell'avventura armati di un biglietto di transito, non essendo autorizzati viaggi nell'Unione Sovietica, neanche per persone provenienti da un paese fratello. Ad aprire Viaggiare controvento, un bellissimo capitolo, da accompagnatore turistico a zaino, piccola bici del turismo sovietico, di Christian Noack, in cui scopriamo tramite parole chiave cosa volesse dire fare turismo nel blocco dell'Est. Ideale seguito di questo libro è il secondo volume della collana dedicata al racconto dell'Unione Sovietica con gli occhi dei viaggiatori illegali, alpinisti illegali nell'URSS. Uscito sempre per Keller e ancora con la curatela di Klaus e di Boccher, ma nel 2018. Come in precedente volume, anche qui si raccontano viaggi estivi di giovani della DDR, che si muovono però verso le alte quote delle montagne sovietiche, sognando il picco del comunismo o picco Lenin. Anche qui il grande problema per i giovani tedeschi è come ottenere l'autorizzazione a compiere il viaggio, con l'ulteriore complicazione del trovare i materiali da montagna e magari le mappe delle alture, spesso coperte da segreto militare. Racconti di viaggio, quindi, che però, come piace a noi di Van Loon, permettono di immergersi nella storia e nel racconto della quotidianità della Guerra Fredda. A rendere preziosi questi due volumi della Keller è anche il tipo di sguardo che utilizzano. Pur filtrati da una memoria che viene ricostruita ad anni di distanza, i resoconti di viaggio raccontano la vita dell'Unione Sovietica con gli occhi di persone che venivano da un altro paese socialista e non dall'Occidente. Non troviamo quindi il gusto dell'esotico o della compassione tipico dei reportage fatti da occidentali, ma una sorpresa per delle bellezze paesaggistiche o per spazi che nella Germania Est non potevano essere immaginati. Visto che abbiamo parlato di Controvento, come prima canzone non possiamo non sentirci una canzone del 2011, appunto, che è Controvento di Giorgio Canali. Urla un clacson, Jonas Fink è un personaggio in un certo senso rappresentativo dell'esperienza del comunismo dell'Est, un ragazzo la cui esistenza è stata violentata dalla carcerazione priva di accuse chiare e tempi di pena definiti del padre, un medico ebreo di Praga. Solo con la madre, esasperata dalla lontananza del marito ed escluso dalla scuola in quanto figlio di un nemico del popolo, Jonas inizia a lavorare come libraio e scopre il valore dei libri, anche in compagnia di amici che vivono il gusto della poesia come una prima forma di dissidenza. Negli anni di una destalinizzazione più formale che reale, Jonas scopre anche l'amore, invaghendosi di Tatiana, la figlia dell'ambasciatore russo a Praga, dando vita ad una sorta di difficile relazione. Il libraio di Praga, che ha al centro la rivolta di Praga e una fuga verso l'occidente di Jonas, tira le file di queste vite nel cuore della storia. Oltre alla straordinaria bellezza delle tavole di Vittorio Giardino, vi suggeriamo la lettura della saga di Jonas Fink proprio per la capacità che ha Giardino di raccontarci la storia con questi romanzi a fumetti ambientati nel passato. I fumetti di Vittorio Giardino, infatti, che già di per sé sarebbero un ottimo esempio di romanzo storico per l'accurata ricostruzione di ambientazioni e contesti e le vicende che possiamo trovare nelle tavole, si presentano come una via molto originale per raccontare la storia, quella con l'S maiuscola. Rifiutando la via del racconto collettivo, tipica di tanti romanzi storici, Giardino racconta delle avventure o delle vicende individuali, che però non si discostano mai dalla ricostruzione esatta delle vicende storiche. Ci spieghiamo meglio, essendo l'esito della storia già noto e non modificabile, sostiene Giardino, noi non possiamo aspettarci che le vicende di un Jonas Fink vadano come a noi piacerebbe che andassero, pur nello sforzo dei personaggi di influire sull'andamento delle cose. Ciò nonostante, delle persone hanno vissuto e hanno tentato di dare un loro contributo al cambiamento della storia, pur non riuscendovi magari. Tramite il racconto di Jonas Fink, Giardino vuole offrire il suo contributo al racconto di questo tentativo di tanti e tante che cercarono di modificare la propria situazione, e l'attenzione che ci dà Giardino con questi personaggi va proprio verso un percorso individuale, pur inserito in un quadro storico complessivo, e serve a raccontare delle reazioni alla storia non eroiche ma umane. Non a caso, alla fine del volume, Jonas Fink viene additato come un codardo per la sua fuga in Occidente. Con queste vignette Giardino ci chiede se noi saremmo stati in grado di comportarci in maniera differente. La saga di Jonas Fink è ancora più testo su cui riflettere di storia, perché prende le sue mosse dalle riflessioni che Vittorio Giardino andava maturando nei primi anni 90 al crollo dei regimi socialisti, quando si stava per consumare quello scontro etnico e politico che avrebbe portato alla guerra in Jugoslavia. Non a caso fu poi uno degli episodi più drammatici di quel conflitto, l'assedio di Sarajevo, a spingerlo verso l'approfondimento della guerra in Spagna, tradotto poi in Non passaran, che ha messo in pausa per 30 anni Jonas Fink. Ad accomunare però queste opere, che hanno caratterizzato più di 20 anni di produzione a fumetti di Vittorio Giardino, è sempre la pietà che mostra verso la storia. Una riflessione sul presente spinge l'autore a conoscere meglio la storia e il passato, dando vita a personaggi che testimoniano la drammaticità dell'incidere storico proprio con l'umanità dei loro atteggiamenti e dei loro percorsi individuali. sognato che il vento dell'ovest mi prendeva leggero per mano, mi posava alla fine del mondo fra isole e terre lontane. Camminavo al tuo fianco sul molo, guardavamo le barche passare, mi cantavi una musica dolce, più dolce del canto del mare. L'orchestra suonava The Blackbird nel bar sulla strada del porto, i pescatori gridavano forte fra il vino, la birra e le carte. Raccontavi le storie di viaggi, di strade, di amici caduti, di amori incontrati lontano e di amori che il tempo ha perduto. E i giorni correvano ed il tempo nel sogno volava, stringevo la donna delle isole, ballavamo leggeri nell'aria. E i giorni passavano e l'oceano li stava a cullare, e il vento alla fine del mondo portava un canto del mare. Seduti fra pietre e brughiere guardavamo i gabbiani volare, raccontavi la storia del bimbo che un giorno scappò con le fate, ma il vento dell'ovest chiamava ed il cielo d'Irlanda svaniva. Mi svegliai in una stanza deserta, ubriaco, mentre il sogno finiva. E i giorni che passano sono lunghi e coperti di nero, mi trascino perduto nei vicoli a maledire una terra straniera. E i giorni sono secoli aspettando di poter tornare di nuovo alla fine del mondo, cullato dal canto del mare. Abbiamo concluso la presentazione del Libraio di Praga di Vittorio Giardino citando il fatto che a spingerlo verso la narrazione storica che hanno animato la saga di Jonas Fink e poi quella di Max Friedman furono i grandi stravolgimenti storici degli anni 90, con il crollo dei regimi socialisti ad est e poi la guerra in Jugoslavia. Ci concentriamo ora proprio sul racconto di questa tragedia che ha però dato vita a delle forme di resistenza che avevano il significato della sopravvivenza. Entriamo quindi nell'assedio di Sarajevo, il più lungo assedio che l'Europa ha conosciuto in età contemporanea, durato dal 92 al 96, il più grande rimosso della coscienza europea. Il volume di cui vi parliamo e che ripropone il racconto di quelle drammatiche esperienze di guerra e di violenza è Sopravvivere a Sarajevo, condizioni urbane estreme e resilienza, testimonianze di cittadini nella Sarajevo assediata, 92-95. Uscito per Bebert Edizioni a Bologna nel 2017. Il libro è un piccolo estratto di un complesso lavoro che viene condotto dagli anni 90 dalla Fama Collection, progetto culturale di artisti di Sarajevo, il cui scopo è conservare memoria di quanto sia successo durante questo spaccato delle guerre dei Balcani, mettendo in luce soprattutto la capacità di resistenza e di sopravvivenza della popolazione. La collezione di memorie, testimonianze e produzioni artistiche relative al periodo della guerra è visitabile sul sito internet della Fama Collection, in cui si può trovare anche la riproduzione di uno dei prodotti più interessanti dell'epoca, la Sarajevo Survival Guide, una pubblicazione che raccontava in corso d'opera le strategie di resilienza e resistenza di Sarajevo. Sopravvivere a Sarajevo di Bebert riporta in forma di libro un estratto dei tanti materiali raccolti dalla Fama Collection. Accompagnate da illustrazioni esplicative, le pagine si suddividono in tre punti: attività quotidiane, creatività ed equilibrio, che pagina dopo pagina ci guidano nella scoperta della vita quotidiana nel contesto assurdo di un assedio, di cui testimonianza esplicativa ci viene data da una mappa della città sotto i cannoni all'inizio del libro. Oltre alle tante testimonianze orali raccolte, motivo di originalità di questo libro di Bebert, sono anche le tante foto che occupano una buona metà delle pagine. Oltre alle immagini che testimoniano visivamente la quotidianità in tempo di guerra, veramente preziose sono le tante che ci conducono nella ricostruzione della vita culturale di Sarajevo, che non ha mai smesso di fermarsi. Gli spettacoli, la radio, il cinema. Pensate che nel 93 si tenne anche un festival del cinema di Sarajevo, sotto i proiettili dei cecchini, che erano organizzati sull'onda del costante rischio per la propria vita, erano una delle tante strade per continuare nella lotta per la sopravvivenza. Il nostro viaggio su fughe da una situazione di oppressione e resistenza alla costrizione, che abbiamo iniziato parlando di Guy Delisle, naturalmente con la vicenda di Sarajevo conosce un'espressione totalizzante, quasi assommasse tutto, desiderio di fuga e resistenza. Ci è sembrato utile, oltre ai testi da leggere, consigliarvi anche un appuntamento teatrale a tema storico che si terrà in zona di Bologna. Le Grotte della Memoria, spettacolo itinerante sull'esperienza degli sfollati durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, proprio nelle grotte dell'attuale Parco dei Gessi. Lo spettacolo, realizzato dalla Fraterna Compagnia con la regia di Massimo Machiavelli, ha avuto una sua prima il 16 giugno e avrà delle repliche il 14 e 28 luglio, il 25 agosto e il 2 e il 16 settembre presso la Grotta del Farneto di San Lazzaro di Savano. Ne parla ora ai nostri microfoni proprio il regista Massimo Machiavelli. E allora buongiorno a Massimo Machiavelli. Massimo, senza rovinare il gusto di assistere allo spettacolo, vorrei chiederti di presentare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici lo spettacolo Le Grotte della Memoria. Sì, dunque l'idea dello spettacolo ci è venuta da un video che abbiamo avuto dal quartiere Savena. È un video di Schizum Bottega che si intitola Fino a quando la guerra non sarà passata. Sono interviste fatte a persone che da piccoli, da bambini, erano rifugiati dentro le grotte e raccontano tanti episodi. Questo video ci ha fatto venire in mente di provare a tentare di fare una ricostruzione all'interno di una grotta che poi si è rivelata la Grotta del Farneto, e dopo lì abbiamo contattato insomma le varie persone e siamo riusciti ad avere il permesso, perché non è stato semplice, per fare questa cosa nella sala del trono della Grotta del Farneto, quindi in fondo dove arrivano diciamo i visitatori. L'idea naturalmente è legata a un progetto che si chiama Oltre le Mura, che è più ampio e che riguarda un po' la storia del quartiere Savena. Ci sono state diverse azioni, la più importante è questa delle Grotte della Memoria, che va fino a settembre praticamente. Ogni due sabati fino a settembre ci sarà questa ricostruzione storica per un massimo di 20 persone di pubblico, che in qualche modo entreranno quasi come protagonisti della ricostruzione, insomma sono un po' trattati anche loro come rifugiati, ecco. Ecco, allora, proprio per raccontare di storia, visto che il nostro è un programma di storia, come vi siete rapportati con queste memorie e che lavoro di ricostruzione avete fatto, partendo anche dal video di cui ci parlavi, e poi come l'avete riportato in scena? Sì, allora, dunque, la cosa che era molto interessante era quello di fare uno spettacolo con delle testimonianze vere, quindi raccontando storie vere nel luogo in cui erano avvenute, cioè all'interno di queste grotte. Chiaramente da un punto di vista storico ci siamo dovuti chiaramente informare su come vivevano in queste grotte, e quindi abbiamo ricostruito esattamente quello che abbiamo sentito dalle testimonianze. Quindi abbiamo portato su quintali di paglia, abbiamo costruito dei pagliericci, abbiamo zone dell'acqua, zone del cibo e 13 attori che lavorano dentro questa grotta, e non è proprio uno spettacolo, è diciamo una ricostruzione dove il pubblico in qualche modo entra dentro la ricostruzione. Il pubblico viene preso all'inizio della grotta, viene portato in fondo, e già nel momento in cui viene portato in fondo assiste a due momenti. Quando arriva in fondo viene trattato come se dovessimo costruire dei nuovi letti per loro, e gli raccontiamo come si vive nella grotta, che era una vita veramente terribile, perché la grotta è buia e fredda. Erano riusciti a portare la corrente elettrica, ma una vita anche con la paura, perché da un momento all'altro i tedeschi potevano arrivare, e non è stato un caso che le grotte del Sarmento hanno preso tanti uomini e li hanno poi fucilati. E quindi è una via di mezzo, diciamo, tra quello che è un film e quello che è una pièce teatrale. Proprio una ricostruzione, diciamo, dove il pubblico non viene neanche trattato da pubblico, ma viene trattato come se improvvisamente avesse fatto un salto nel tempo, fosse tornato al 1944, ecco. Bene, siamo quindi giunti alla fine di questa puntata e alla fine di questo ciclo di puntate di Walloon per l'anno 2017-2018. Riconfermiamo per il prossimo anno la nostra presenza sulle frequenze di Radio Città Fujiko e il nostro impegno a portare avanti un programma radiofonico di storia contemporanea, che vuole ovviamente portare gli ascoltatori e le ascoltatrici a riflettere sul presente. Ci impegneremo quindi ad avere sempre un approccio scientifico, un metodo corretto, affidabile. Ci impegniamo proprio per voi a consultare le fonti in maniera corretta, la letteratura e così via, ma ci impegneremo anche a fare di questa trasmissione una pratica di divulgazione che sia davvero accessibile, e non solo per addetti ai lavori, soprattutto per i tempi che corrono e che correranno. Pensiamo che sia assolutamente necessario che tutti e tutte si riappropriano del proprio passato, ci si interroghino e che, diciamo, metterò nel proprio zaino tutti quei bagagli e tutti quell'equipaggiamento che servirà per affrontare tempi bui. Ma noi cercheremo di portare le nostre lampade a gas. Esatto, lampade a gas che sono passate in quest'anno nella forma di tanti libri che vi abbiamo suggerito, di tante interviste che abbiamo fatto con autori e autrici storiche e storiche. Ci piacerebbe parlarne anche di più. Se avete quindi delle segnalazioni, non esitate a darcele, anche delle osservazioni critiche, quelle però poche perché siamo d'estate. E comunque i nostri riferimenti sono sempre quelli. L'importante è che andiate sul sito www.radiovallun.info. C'è la nostra pagina Facebook, caso S-Walloon On Air, che non aggiorniamo proprio tanto, ma è un ottimo portale per parlare con noi. E questo è tutto. Vi diamo giusto un appuntamento abbastanza importante al quale teniamo molto. Sì, purtroppo noi non ci saremo, ma vi ricordiamo che dal 19 al 22 luglio, se non avete impegni, vale la pena davvero di andare sull'isola Polbese, che è una piccola isola nel lago Trasimeno in Umbria, dove c'è il simposio organizzato da Zapruder. Quest'anno ci sono stati molti ospiti, molti storici e storiche che hanno parlato con noi proprio di Zapruder. È organizzato da loro e dalla rivista Storia in Movimento. Il simposio è... tratta sempre di storia della conflittualità sociale, e ogni anno ci sono temi diversi. Comunque, per maggiori informazioni potete rivolgere a storiaimmovimento.org. Bene, per oggi e per questa stagione è tutto. Buon proseguimento di giornata e buona estate a questo punto da Frey, Debs e Olga. Ciao.